o bruna venditrice di stornelli. Son le tue labbra come due coralli. Tu m'hai predetto il destino con quegli occhi belli, dove risplende il colore delle verdi valli. Il tuo volto è un poema di sole che fa innamorare. La tua voce è una dolce armonia che non so scordare. Vorrei baciare i neri tuoi capelli, o bruna venditrice di stornelli. La cantatrice di strada per ogni contrada si ferma a cantare. La gente passa, si volta, si ferma ed ascolta, rimane a guardare. È una stornellatrice che l'avvenir predice. Vende stornelli e pianeti di biondi poeti che fanno sognare. Hai predetto il destino con quegli occhi belli, dove risplende il color delle verdi valli. Il tuo volto è un poema di sole che fa innamorare. La tua voce è una dolce armonia che non so scordare. Vorrei baciare i neri tuoi capelli, o bruna venti.